Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, ben ritornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata dello Zibaldone, un programma, come sapete, in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica Radio Libera barcellonese, 91.4 FM a Barcellona, in streaming poi all over the world dalla web contrabanda.org e poi ovviamente i podcast da oltre una dozzina d'anni, li trovate tutti scaricabili dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org. È cominciato il mese di maggio, noi siamo qui al piede del cagnon, come si dice in Spagna, sempre pronti non per la patria e per il re, qual è? Questo era il lemma dei nazionalisti italiani di un secolo fa, noi siamo pronti a farvi ascoltare buona musica, a parlare, a insomma toccare dei temi particolari, ecco, perché oggi comincia tra l'altro la prima puntata di uno speciale, un monografico. Non vi dico nemmeno il titolo, ossia ve lo dico, la famosa invasione dei dementi in Italia, perché, beh insomma, potrebbe far discutere questo titolo. Sentitevi la prima canzone perché magari capite il perché di questo titolo. Shh, zitto, prego! Ma due vagabondi vanno lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non fischiare, no, non continuare, no, perché fischia assai male, uffa. Loli, loli, loli, loli, loli, loli, loli. Zitto, prego. Van due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi ma. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa. Va, lungo la strada va, senza parlarsi ma. No, no, non fischiare, no, no, non cantare, no, perché, perché la nostra vita è triste, uffa. No, no, non fischiare, no, no, non cantare, no, perché, perché la nostra vita è triste, uffa. E forse avete riconosciuto la voce di un giovanissimo Giorgio Gaber, non era però da solo in questo brano che insomma è proprio agli inizi, stiamo parlando del 1960, era accompagnato da Enzo Iannacci, il duo si chiamava I Due Corsari. Che cosa ha a che fare I Due Corsari, Banzo, con l'invasione dei dementi in Italia? Ecco, spiegamolo un po' ai nostri ascoltatori. Innanzitutto bentornato, buon pomeriggio al più ergonomico collaboratore di radio che si conosca dalla notte dei tempi. Vabbè Steven, però se mi fai queste intro poi faccio fatica a cominciare. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Sì, cominciamo una serie di monografici, perché preferisco il termine a speciale, saranno tre puntate, E il titolo, la famosa invasione dei dementi in Italia, fa riferimento, ovviamente non c'è nessuna intenzione di ironizzare su una malattia grave come la demenza in tutte le sue forme, fa riferimento al rock demenziale, al cosiddetto rock demenziale che è stato la nostra prima ispirazione. Poi in realtà cercando, scavando, indagando, abbiamo ampliato un po' lo spettro alla musica, diciamo, variamente ironica, variamente comica. Poi adesso non c'era bisogno di spiegare tutto adesso, e appunto con un focus sulla scena italiana, perché appunto abbiamo voluto coprire artisti del nostro paese che si fossero dedicati più o meno a questo genere, non genere, in senso lato. E appunto anche qui come data di partenza abbiamo scelto l'inizio degli anni 60, perché è arbitraria, perché avremmo potuto rimontare fino a Petrolini, sono certo. Canzoni di Natalino Otto che si potrebbero ascrivere, diciamo, come antenati di questo filone. Però abbiamo preso, visto che siamo partiti dal rock demenziale, abbiamo preso il rock and roll in generale come partenza, anche se la musica che proporremo spesso non lo sarà. E quindi diciamo che una prima scelta per cominciare poteva essere i due corsari, cioè Gaber e Iannacci, appunto all'inizio della loro carriera, entrambi giovanissimi, con testi che percorrevano questo stile, ampiamente ironici, anche se Iannacci non ha mai usato il termine musica demenziale quanto piuttosto schizoide, si vede la formazione medica, come faceva notare Fausto, che a breve si unirà a noi. E nulla, questo sarà un percorso veramente lungo e veramente affascinante. Sentiremo di tutto, sentiremo cose belle, cose meno belle, anche soggettivo, ma appunto abbiamo voluto dare una panoramica complessa, complessiva e non edulcorata soprattutto. Eh sì, insomma, musica che ride, musica che fa ridere, ce n'è per tutti i gusti, appunto ci sono tutti gli stili musicali. Ovviamente all'inizio il rock and roll, soprattutto in questi anni 60, la fa da padrone. E andiamo con un altro brano, rimaniamo sempre in quello stesso 1960, lui è Ghigo Agosti con il brano intitolato 13 vermi con il filtro. Di che parla Ghigo Agosti? Beh, sentitevela un po' e poi magari vi aiutiamo un po' a capirlo in caso. E io ho trovato sulle scale 13 vermi con il filtro, e ho saputo che fa male la nicotina. Tina, Tina, dove sei Tina? E io ho trovato sulle scale un verme tipo esportazione, e ho saputo che si chiama Sirricone, l'asioderma Sirricone. Però, però, qualcuno dirà, che cosa c'entra il baccalà? Tre sigarette e con la ragazza, non ci capisco proprio un verme. E io ho trovato sulle scale 13 vermi con il filtro, e ho saputo che fa male la nicotina. Com'è dannosa la nicotina, uscire sempre. Però poi tu dirà, che cosa c'entra il baccalà? Tre sigarette e con la ragazza. non ci capisco proprio un verme. Io ho trovato sulle scale 13 vermi con il filtro e ho saputo che fa male la nicotina, tina, tina, tina, tina, tina, tina. Io ho trovato sulle scale 3 sigarette con il filtro e ho saputo che va male la nicotina, tina, tina, tina, tina, tina. E io ho trovato sulle scale 3 sigarette con il filtro e ho saputo che va male la nicotina, tina, tina. Insomma, vermi, filtri, nicotina, sigarette sulle scale. Ghigo Agosti, che ci voleva dire con questa canzone uscita nel 1960, 13 vermi con il filtro? Fausto, bentornato a Zibaldone, spiegacelo tu. Ciao Steven, ciao a tutti, buon pomeriggio, è sempre un piacere tornare perché i nostri speciali monografici ne stiamo facendo tanti, quindi questo sarà una lunga serie. E niente, Ghigo Agosti, che è conosciuto con questo nome, l'anagrafe sarebbe Arrigo Agosti, è alla fine uno dei primissimi interpreti del rock and roll italiano. Ha cominciato, addirittura alcuni dicono che sia stato il primo autore del primissimo brano rock and roll italiano, Stazione del Rock, nel 55. Poi la sua vena prende questa linea proto-demenziale con questi brani abbastanza assurdi, che fra l'altro gli costano anche la censura, perché comunque non viene passato in radio, non viene passato in Rai, e quindi ha questa sua fase. Poi successivamente cambierà ancora e assumerà varie identità come Mister Anima e farà un pezzo rhythm and blues alla James Brown. Poi cambierà ancora identità diverse volte, quindi è davvero un irregolare del rock and roll italiano. Per parlare di lui penso ci vorrebbero due o tre puntate di Zibaldone solo per accennare alla sua carriera. Senso. Davvero lo spirito del rock and roll primigenio italiano e della scena milanese, che era veramente vivacissima all'epoca. Eh sì, e a cosa faceva riferimento con queste canzoni? C'era uno scandalo, no, che uscì sui giornali. Sì, siamo nel 61 e questo scandalo di sigarette adulterate, e appunto lui prende ispirazione, diciamo che la fantasia è volata per descrivere questo scenario. Poi lui ha fatto anche pezzi come Banana frutto di moda e altri, anche brani più macabri, quindi veramente una vena molto creativa. C'è un po' di tutto. Rimaniamo con un altro personaggio di quegli stessi anni davvero particolare, Clem Sacco, O mamma voglio l'uovo alla coque. Voglio l'uovo alla coque, oh mamma, e ballare in slip, oh mamma, e suonare in frac e cantare in rock. Sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo come rock. Oh mamma, voglio fare il caschetto, oh mamma, scivolando dal buffet, oh mamma, e gridare we we come balli scimpanzé. Sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo come rock. Fare il caschetto, oh mamma, scivolando dal buffet, oh mamma, e gridare we we come fanno gli scimpanzé. Sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, pazzo. Questo è un brano che io sono solito mettere su quando metto su musica nei locali, perché è un brano che fa ballare come molti del rock and roll. 1961, Fausto, O mamma voglio l'uovo alla coque, voglio l'uovo alla coque, lui è Clem Sacco. Sì, Steven, Clem Sacco o Clemente, sempre Clemente Sacco all'anagrafe, fra l'altro italiano, ma nato in Egitto, è nato al Cairo, e uno che a scuola andava a scuola elementare con Dalida, per intenderci, che anche lei è figlia di... quindi parlando di cose, quindi è una vita veramente avventurosa, anche lì ci vorrebbero puntate e puntate. Praticamente provò, tornato in Italia, a suonare come tenore e poi fu folgorato anche lui sulla via del rock and roll, come tantissimi altri, come Celentano, come i più noti naturalmente, rocker del, alfieri del rock italiano, e poi ha fatto questa scelta della vena appunto protodemenziale, esibendosi spesso soltanto in mutande, con queste famose mutande leopardate, quindi davvero un personaggio particolarissimo, che poi ha vissuto un gran momento di oblio a fine anni 60, fra l'altro aveva cominciò a esibirsi come Clementina Gay, quindi come una specie di drag queen, no, era una drag queen ante litteram, quindi con canzoni, quindi, e fra l'altro appunto si produceva da sei dischi, aveva la sua Clem Sacco Records, quindi, e raccontava in un'intervista a Vince Tempera che nei fine anni 60 lui girava con questo camper per Milano in cui vendeva le sue cassette o i suoi 45 giri e anche oggetti di uso quotidiano, non so, come i tagliaunghie o altri oggetti o casalinghi, piatti, quindi veramente un personaggio curiosissimo e che è davvero un antesignano, anche perché i pezzi li scriveva tutti lui, quindi uno dei primissimi autori del rock demenziale italiano, riscoperto fortunatamente qualche anno fa, quando cominciarono a riproporre i suoi primi rudimentali videoclip. Fra l'altro credo, leggo che vive alle Canarie tuttora, ancora andiamo a cercarlo, cioè, allora in andiamo forma, quindi andiamo a cercarlo per intervistarlo e per farci raccontare la sua straordinaria vita. Assolutamente, sì sì, non perdiamo questa occasione, rimaniamo con Clem Sacco, un altro brano, due anni dopo, era il 63, usciva questo brano dal titolo molto da rock demenziale, Baciami la vena varicosa. Contenti più dei baci miei, non t'accontenti più delle mie carezze, non t'accontenti più del mio puro amor. Sai che ti dico allora, baciami la vena varicosa, succhiami il dente del giudizio, nappami il pelo del neo, vampira, vampira, vampira, cia cia, succhiami la rotola del femore, fammi l'unghia incarnata, baciami pure l'ombelicolo, vampira, vampira, vampira, cia cia. Non t'accontenti più delle mie carezze, non t'accontenti più dei miei sorrisi, non t'accontenti più dei miei sentimenti, sai che ti dico allora, baciami la vena varicosa, succhiami la rotola del femore, fammi l'unghia incarnata, vampira, vampira, vampira, cia cia. Miei, non t'accontenti più delle mie carezze, non t'accontenti più del mio puro amor. Sai che ti dico allora, baciami la vena varicosa, succhiami il dente del giudizio, stappami il pelo del neo, vampira, vampira, vampira, cia cia, vampira, vampira, vampira, cia cia, vampira, vampira. Vampira, vampira, cia cia cia, Clem Sacco, baciami la vena varicosa, Banz, insomma qui una registrazione tra l'altro molto casalinga da quello che si poteva percepire. Ma ci piace così, punk ante litteram e anche famolo strano ante litteram, perché sì, se si segue il testo della canzone effettivamente c'è, non lo so, quasi un invito alla... all'inventiva sessuale, come io ho detto, e il brano in questo caso cia cia cia, evidentemente io lo trovo assolutamente coinvolgente e anche un po' sconvolgente, pensando che risale a 60 anni fa, E su Clem Sacco potremmo aggiungere alle informazioni che ci ha dato prima Fausto, che sta per compiere 90 anni, e quindi una vita veneranda, lunghissima, e che aveva partecipato nei primi anni 60 al Festival del Rock and Roll 61, 62, 63, soprattutto la prima edizione, che nel 61 aveva un'importanza fondativa, organizzata proprio da Ghigo Agosti, col partito estremista dell'Urlo. Quindi si vede, ecco, che c'era proprio un concetto quasi di scena, ancora una volta ante litteram, perché erano concetti che poi si sono affermati in un momento successivo. Eh sì, andiamo avanti, rimaniamo al 63, anno molto produttivo, come vedete. Ma che calze vuoi da me? Ecco, non ho letto male, proprio così il titolo di questa canzone di Ritz Samaritano. Le calze lunghe mi fanno troppo vecchia. Non ne vuoi? No. Le calze corte sono troppo provinciali. Non le vuoi? Ma no. Ma che calze vuoi da me? Ma che calze vuoi da me? Vorrei donarti, se lo potessi, quel che vuoi tu. Le calze nylon sono troppo delicate. Non le vuoi? No. Le calze bamber non mi calzano. Non le vuoi? No. Ma che calze vuoi da me? Ma che calze vuoi da me? Avevo un cuore e te l'ho dato. Sognavi amore e l'hai avuto. Sono pur sempre innamorato. Cosa pretendi di più? Non lo so. Le calze verdi? Che banalità. Non le vuoi? No. Le calze rosse? Che gusto. Non le vuoi? Ma no. Ma che calze vuoi da me? Ma che calze vuoi da me? Dimmi che calze, dimmi che calze tu vuoi da me. Sognavi amore e l'hai avuto. Sono pur sempre innamorato. Cosa pretendi di più? Non lo so. Le calze verdi? Che banalità. Non le vuoi? No. Le calze rosse? Sai che gusto. Non le vuoi? Ma no. Ma che calze vuoi da me? Ma che calze vuoi da me? Dimmi che calze, dimmi che calze tu vuoi da me. Ritz Samaritano era il 1963. Fausto, dici qualcosa per favore su Ritz Samaritano con questa voce un po' da crooner. Sì, Steven, diciamo che siamo dalle parti di Buscaglione, diciamo degli eredi non ufficiali, ecco, fra l'altro Ritz Samaritano, che all'anagrafe fa Lorenzo Schellino, è proprio torinese ed era un grande ammiratore di Buscaglione, che ricordiamo ci ha purtroppo lasciato nel 1960, e lui in pratica ha continuato in balere magari di ordine un pochettino leggermente infimo rispetto a quelle che frequentava il gruppo di Buscaglione, proponendo una sua versione riveduta corretta dello stile. Quindi infatti il suo gruppo si chiamava I Gangster, quindi Ritz Samaritano e i Gangster, con pezzi come Tango Assassino, La Grana, Il Carciofo, Tango Vigliacco, quindi abbiamo la fisarmonica, strumenti un pochettino più, diciamo, da balera più che da nightclub, e quindi abbiamo uno stile riveduto corretto. Tra l'altro anche lui ha goduto di una piacevole riscoperta negli anni 90, poi ci racconterà meglio Enrico con il prossimo pezzo. Eh sì, andiamo infatti ad ascoltarcelo all'anno dopo, sempre alla metà degli anni 60, 64, Cadavere spaziale, lui è sempre Ritz Samaritano. L'altra sera al ristorante ho mangiato molti cibi, certamente i più pesanti. Quando a letto sono andato e nel sonno mi ho agitato, un cadavere ho sognato, un cadavere così. Due pallottole nel cuore, un coltello nel cervello, sette chiodi in una mano conficcati col martello. Era un essere anormale, un cadavere spaziale. Nella bara non ci stava, mentre io ce lo spingevo, il cadavere piangeva e morire non voleva. Era un essere tremendo, era assai terrificante. Il suo sangue luccicante che bagnava il mio mantello era un sangue colorante come quello d'un agnello. Era un essere infernale, un cadavere spaziale, un cadavere spaziale, un cadavere spaziale. Nel cuore un coltello nel cervello, sette chiodi in una mano conficcati col martello. Era un essere anormale, un cadavere spaziale. Nella bara non ci stava, mentre io ce lo spingevo, il cadavere piangeva e morire non voleva. Era un essere tremendo, era assai terrificante. Il suo sangue luccicante che bagnava il mio mantello era un sangue colorante come quello d'un agnello. Era un essere infernale, un cadavere spaziale, un cadavere spaziale, un cadavere spaziale. Beh, qui diciamo che Banzo si allontana un po', Rizzo Samaritano, dal modello non musicale, se vogliamo, di Fred Buscaglione, ma soprattutto anche per questa tematica. Sembra un po' no, uno splatter ante litteram a livello musicale. Assolutamente sì, il brano, che in realtà credo sia del 63, è molto anticipatore di altre tendenze del demenziale. Appunto, qui non c'è tutto quello scenario di gangster, come sottolineavi tu. Si passa ai territori dell'incubo, in cui questo cadavere è il prodotto di una digestione pesante, sostanzialmente. È una canzone che a me sembra tuttora sorprendente. Nel 63 doveva avere un impatto assolutamente sconcertante, ed è il brano che ha riconsegnato un po' Rizzo Samaritano agli onori delle cronache dopo un lungo oblio, perché fu coverizzato da Elio e le Storie Tese nel 1993, nel live in studio Esco dal mio corpo ho molta paura. Per Elio bisogna ancora aspettare, ma ovviamente apparirà a un certo punto. E sì, in una versione nella quale il gruppo milanese canta la canzone insieme a Rizzo Samaritano, che poi ha continuato la sua carriera anche incidendo, ad esempio, nel 2009 un disco dal titolo estremamente autoironico, Non mi caga più nessuno, del quale però onestamente ho letto una recensione piuttosto negativa. Comunque lo ricorderemo per sempre per perle come questa. Sì, come cadavere spaziale. Rimaniamo in quegli anni e ritroviamo Giorgio Gaber con Goganga, eccola qui. Goganga, goganga, goganga, ginga, giga, go, go, ganga, gonga, giga, go, go, ganga, go. Buongiorno, dottore, come vede, sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non mi abbandona e le donne ridono di me. Oh, oh, oh, oh. caro signore, per i malati di fischietto ho brevettato questo apparecchietto, permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Grazie, dottore. E inoltre cosa debbo fare per guarire da questo difetto? Vado a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e voilà, lei guarirà. Dunque, oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico? Eccolo qui, Giorgio Gaber, non era più il momento, no? Questa canzone è stata scritta nel 63 ma incisa nel 68, Banzo degli anni, diciamo, con Enzo Iannacci, più rock and roll, si stava già avvicinando un po' al teatro canzone, però sempre con questa vena profondamente ironica. Sì, Steven, questa in realtà è una seconda incisione, perché il brano era già stato inciso nel 63 in una versione più lenta, a me piaceva questa che era più spedita, più energica. Ed effettivamente, come dicevi anche tu, descrive un po' un'evoluzione, perché siamo usciti dai territori scatenati rock and roll degli inizi, non c'è, ovviamente siamo molto lontani dalla successiva evoluzione del teatro canzone, l'ironia è una costante assoluta della produzione di Gaber, e questa canzone però io la trovo particolarmente aderente al discorso che stavamo facendo del rock demenziale dintorni, per l'assurdità assoluta dell'Apollo raccontato, anche se poi il tono è estremamente garbato perché stiamo parlando di inizio degli anni 60, però c'è quell'elemento di assurdità che secondo me lo rende molto affine al rock demenziale. Eh sì, e rimaniamo sempre lì, sempre alla metà degli anni 60, con Walter Valdi e questa La Busa Nuova. Nella mia strada che è una busa nuova che ieri la chierano, l'uminga vista porca d'una Eva che la busa nuova è pan su un burlagio. Tutti incassau di voi del sindic, mandi d'entra a parlare spurter. Sul tandalà e godi, ma come? Che giri bus senza cartel? Nella mia strada, sì, una busa nuova che ieri la ghera no. Me su fa mal tu chi sulla gengiva in della busa nuova e me fa mal a mo. E il fa, ma a mi cosa mi importa della sua busa? Cosa che entri mi? Che il vaga su è il qui in pian seconda porta. La competenza del reparto C. Sono tanta su fino a qui in pian de corsa. Qua su sta su, dopo mi manda giù. Mi manda giù in un'altra stanza. E qua su sta giù, mi manda su anche a mo. Ghelo di Atuc, mica è una busa nuova. Una busa nuova che ieri la ghiera no. Nella mia strada bisogna riacquatala. Se no, porca sidela, tu manda lì anche a mo. So proprio no, come la sia, ma fa girà come un merlus, per trova quel che per saria è competente per stupai bus. E dis che il faga una domanda, per dopo me le porta chi? Con una foto bella grande, formato 2x23. E mio scrigio che è una busa nuova. Una busa nuova che ieri la ghiera no. Nella mia strada che uraria la foto, ma la mia macchinetta le rota e poi di no. Son venu via in casa me un neghe, son tanda ca e l'era molì. passava in chiesa, cudì che senta la minga vista lenta dentro il ficchi e mi cudì. A lei una busa nuova che ieri la gherano. Desche che entra dentro lui che l'inghisa, che il vaga e che le disa, de qua ta la gio. Ecco, la Busa Nuova di Walter Valdi, troviamo anche insomma la canzone in dialetto. Ecco, questo ci avvicina in fin dei conti, siamo sempre nell'ambito milanese, Fausto, a brani dell'epoca anche di Enzo Iannacci. Assolutamente sì, Steven. Walter Valdi è uno dei nomi simbolo del cabaret milanese perché ha dato un contributo essenziale di brani. Molti brani suoi sono stati cantati da altri autori, ad esempio faceva il ballo della banda, nella banda dell'Ortica, è sua, o anche un pezzo come il Tic che Gaber rese molto bene dal vivo, oppure altri brani scritti per i Gufi, che adesso non abbiamo avuto modo di presentare perché sennò dovremmo dedicare 3-4 puntate solo alla scena milanese. Sì, al cabaret milanese. Il tempo è tiranno. Lui, fra l'altro, nella vita faceva l'avvocato, però appunto aveva questa grande passione per prima cominciò come mimo, poi appunto per la canzone ironica, ma con un uso creativo della lingua. Fra l'altro, qui c'è questo gioco simpaticissimo fra Bossa Nova e la Busa Nuova, quindi giustamente il buco nuovo per appunto, chi non fosse del nord Italia, ecco. Esatto, questo buco nuovo, quindi l'inefficienza, la burocrazia che appunto raggiunge livelli di assurdità incredibili, appunto resa con uno stile appunto di Bossa Nova che all'epoca era assolutamente di moda. Eh sì, andiamo avanti, al 67 troviamo i Cinque Monelli con la loro Balbettando, eccola qui. Testa per lei. Però c'è un fatto, che tutte le volte che la vedeva non riusciva mai a dire quello che sentiva per lei. Infatti non appena cercavo di dirle io ti voglio bene, io mi mettevo a balbettare, a balbettare, a abbiamo trovato il beat con una bella marcia, ma anche in più se vogliamo rispetto al rock di solo 5-6 anni prima, Banzo.

diventano tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. Beh, ma sui Iannacci, per quanto riguarda la musica come lui la definiva, schizzoide, ma anche in generale al cabaret milanese, potremmo dedicare più puntate, Banzo. Che dire su questo brano mitico, Ho visto un re? Beh sì, in effetti è una di quelle canzoni sulle quali è stato detto e scritto tutto il possibile. Testo di Dario Fo, canzone censurata dalla Rai, che proibisce agli Iannacci di cantarla all'ultima serata di Canzonissima 68. E non accreditati, forse sono stati riconosciuti dagli ascoltatori, ci sono Cocchi e Renato ai cori, alle voci collaterali, e in effetti adesso sentiremo Cocchi e Renato in tutto il loro splendore, ma prima volevo dire che comunque gli Iannacci, purtroppo bisogna fare delle scelte dolorose, ad esempio per chi voglia approfondire questo lato più surreale, consiglierei un brano straordinario come Il cane con i capelli, che è credo del 1961 e per me è una perla assoluta della produzione degli Iannacci, ma passerei a Cocchi e Renato. Sì, ma degli Iannacci vale la pena ricordare anche vari brani del periodo della seconda metà degli anni 70 o degli intermezzi tra canzoni che erano assolutamente ironicissimi e spietati. Andiamo a Cocchi e Renato, troviamo questa Bravo 7 più. La sua donna mi ha lasciato, dice che non l'ama più. Tu lo sai cosa gli ho detto? Bene, bravo, 7+. Son 3 giorni che non mangio, non ci vedo quasi più. Quando son caduto in terra, mi hanno detto 7+. Non c'è in giro più nessuno che ti dà quel che vuoi tu. Sanno dirti solamente bene, bravo, 7+. È venuto mio cugino a aggiustarmi la TV. Ha lasciato lì gattino. Bene, bravo, 7+. Sesto piano, non ce la facevo più, tutto mi girava intorno, son caduto a testa in giù. Era un bel giorno d'aprile, tutti che guardavano su, quando ho perso l'equilibrio, mi han gridato 7+. Non c'è in giro più nessuno che ti dà quel che vuoi tu, sanno dirti solamente bene, bravo, 7+. Ero quasi a pian terreno, che volavo a testa in giù. Ho sentito uno gridare bene, bravo, 7+. Si è fatto male? No, guardi che io sono abituato. Bravo, 7+. Ma ha visto il braccio? Bravo, 7+. Ha visto la gamba? Bene, bravo, 7+. Ha visto la testa? Sì, bene, bravo, 7+. Bene, bravo, 7+. Bene, bravo, 7+. Bene, bravo, 7+. Bene, bravo, 7+. E qui siamo all'inizio degli anni 70, Fausto, con questa canzone che qui Cocchi e Renato, dai, diciamolo, sono cattivissimi, Sì, davvero cattivi. Considera che erano gli inizi della loro carriera musicale, avevano iniziato pochi anni prima esibirsi nei cabaret milanesi, quindi siamo sempre in Lombardia, diciamo la puntata per ora è molto filo lombarda, e questo è uno dei loro primissimi singoli. La musica è degli Iannacci, anche molto riconoscibile fra il suo stile, però il testo ovviamente è loro, ed è un singolo, mi è piaciuto inserirlo nella selezione perché credo che non sia mai stato riproposto, infatti si sentì un po' il gracchiare del vinile, no? del brano, e quindi è comunque... rifà riferimento il brano 7+ a una loro gag molto nota delle origini, quella appunto del maestro povero, dell'alunno ricco, no? Che appunto con questo tormentone del Bene Bravo 7 più, ed è veramente uno dei loro primi successi, e poi cui seguiranno tanti altri, appunto, come vedremo in seguito. E adesso andiamo a ascoltarci forse il brano più famoso di Cocchi Renato. Siamo sempre alla prima, nella prima parte degli anni 70, era il 1973, con questa canzone intelligente. Mi piacerebbe cantar una canzone intelligente che segua un filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti. Insomma, una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto e un po' di niente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà lo sciocco in blu. Cosa ci vuole, si sa, per far successo con la gente? Si prende un filo logico importante, la casa discografica di Argente veste il cantante come un deficiente, lo lancia sul mercato sottostante. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Facciamo un attimo, filologico importante. Eh beh, un'altra delle canzoni più conosciute di questa puntata monografica che stiamo dedicando alla musica demenziale italiana. Abbiamo cominciato negli anni 60, qui siamo già nel 1973. Fausto, che dire di questa canzone intelligente di Cocchi Renato, in cui tra l'altro si sentiva, o almeno sembrava, Enzo Iannacci che faceva qualche rumorino? Direi proprio di sì. Direi che la voce che canta questo iattatatatr dovrebbe essere proprio quella di Iannacci, che d'altronde ha scritto il pezzo come più o meno il 90% dei brani del nostro amato duo. Fra l'altro qui l'album è Il Poeta Contadino, derivato dal programma televisivo di grande successo. Loro finalmente avevano raggiunto il grande successo, anche perché magari agli inizi, sai, il loro umorismo surreale non era tanto apprezzato, come dire, si chiedeva: ma chi sono questi qua? Cantano pezzi come La Gallina, naturalmente non erano tanto apprezzati, invece siamo a un grande successo. Fra l'altro, appunto, con la parodia, attualmente, la canzone intelligente detta da due paladini della canzone demenziale, è tutto dire, e fra l'altro uno dei loro ultimi successi, però, perché di lì a poco il duo si dividerà. Galeotto fu il cinema, perché naturalmente Pozzetto viene preso dal successo cinematografico e quindi sceglierà per diversi anni quella strada, però riusciranno ancora a incidere qualche singolo di ottimo livello. Eh sì, ce ne sono altri, infatti penso a Silvano ad esempio. Comunque abbandoniamo finalmente, per così dire, la Lombardia, troviamo nel 1971 questa canzone di Pippo Franco, sì, proprio lui, che si intitola Cesso. Cesso di amarti questa sera, guardando il merletto e la trina del tuo vestito blu. Oh, scarico il cuore dalle pene, finisce qui l'amor con te. Catena, tu non esisti più. Carta, stracciata il nostro amore, mi resti soltanto tu. Tazza, vuota di caffè, feci un danno a dirti t'amo, l'amore non è altro che aria che vola via da sé. Occupato è il cuore tuo da lui, te lo leggo sul volto e ti domando se c'hai ancora molto, ma cesso di dirti che t'adoro, però io resto qui e mi sforzo a non pensarti più. Oh, di corpo sei più bella che mai, oh pioggia, pioggia, invoco te. Pulisci ciò che resta di lei. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. E questa è una canzone, diciamo, che sembra d'amore, Banzo, però in realtà è dedicata, insomma, al cesso, no? Beh, sì, si tiene sapientemente in gioco fra questi due livelli. Faccio fatica a parlarne perché ho riso tutto il tempo dell'ascolto. Allora, tratta dal disco di Pippo Franco Carachiri del 71, in copertina raffigurato mummificato nella carta igienica col culo in esposizione, quindi è molto sintomatico. Brano cofirmato da Gigi Proietti, che partecipa in tre canzoni del disco, che contiene anche un brano come L'Alicantropia, che era già uscito come singolo nel 69, che è un altro pezzo molto gustoso. Noi andiamo dimmi Banzo. Pippo Franco aveva inciso anche un primo singolo, vedendo la foto di Bob Dylan, che abbiamo dovuto escludere nel 67, che faceva un po' ironia sullo scarto generazionale nel beat. E nella sua carriera possiamo segnalare che è stato anche autore di fumetti, era stato sceneggiatore di una serie Peter Paper, o Paper, come si voglia dire, disegnata da Raul Buzzelli, fratello del più conosciuto Guido. E la serie aveva dei toni, diciamo, vagamente erotici, ma soprattutto comico-grotteschi. Andiamo avanti, rimaniamo sempre in quegli anni con i Culattini Fiorello, che scrissero e incisero la canzone intitolata I Frocioni. Ecco, adesso, insomma, farebbe un po' discutere questo titolo, ma prima ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo. In Italia e in tutto il mondo ci sono tante strade e incroci, ci sono tante strade e incroci, tanti quanti sono i froci. Questi sono tempi brutti per sti poveri maschietti, già si sentono le voci che dicono che noi diventeremo tutti froci. Prendilo in ma, prendilo in ca, tiralo su, mettilo in cu, tiralo, tiralo, tira così. Amico mio, l'art'anno io me l'ero fatto socio, fino a quando in un bel giorno io m'accorsi che era frocio. Mi ricordo che mi disse: caro Franco, tu sei bello, se mi piaci tu sei bello, e comincio a toccarmi con la mano sul pisello. Prendilo in ma, prendilo in ca, tiralo su, mettilo in cu, tiralo, tiralo, tira così. Ero appena ragazzetto, ero appena birichino, che m'accorsi che Procetto era pure mio cugino. Me ne accorsi quella sera, mi ricordo che pioveva, e nascosti in un palazzo, per forza lui voleva che cacciassi fuori il cazzo. Prendilo un po', mo te lo do, tiralo su, mettilo in cu, tiralo, tiralo, tira così. E vabbè, insomma, avete sentito che è una canzone, Banzo, che oggi probabilmente non potrebbe essere mandata in onda, eccetto in un caso come il nostro, che è appunto quello di una puntata monografica, contestualizzandola. Insomma, dici qualcosa su questi culattini, Fiorello? Beh, allora sì, effettivamente, come dicevo prima, non volevo mandare solo cose, diciamo, degne di lode, perché qui siamo veramente oltre al livello di omofobia assurdo, che ovviamente, dal quale ovviamente ci distacchiamo in tutto. La canzone è comunque espressiva e rappresentativa di un certo stilema di stronellaccio popolare basato sui doppi sensi. E, mi chiedevi chi è Culattini Fiorello? Non lo so, qui c'è un problema, perché si tratta di quel sottomondo di 45 giri anonimi, in realtà è un nome chiaramente inventato, che è anche strano perché è un nome che vuole alludere all'omosessualità, poi il punto di vista della canzone è quello di un vero maschione, è curioso. Sì. E comunque il brano è stato scritto, pare, da Silvio Silvestri, autore di altri stornelli col doppio senso come La pelosa di Ninetta e di alcune canzoni di tifo romanista che a Roma ricordano, a quanto vedo da commenti su YouTube negli anni 70, e sì, appunto, dovrebbe essere un brano del 71, non lo so perché Discogs non mette la data, altre fonti non mettono la data, poi però a volte l'ho visto indicato così. Sì, vabbè. E sempre su questo filone, Steven, volevo segnalare un'altra canzone, che è La ballata del Finocchio di Occhiofino, probabilmente uscita qualche anno prima, lo stilema è lo stesso, quindi diciamo che erano cose che non sono arrivate a un grande successo, ma erano comunque una espressione rappresentativa di un certo livello di omofobia che a volte si accompagnava alla goliardia e che sicuramente si rifletteva molto nella società italiana di allora. Eh sì, certo, sì, gli stornelli erano molto popolari, d'altro canto. E andiamo di nuovo al nord dopo questa toccata e fuga nella zona di Roma con i gatti di Vicolo Miracoli. Ecco, insomma, ritorniamo un po' al cabaret, però ci avviciniamo di più poi anche, insomma, alle derive più cinematografiche, televisive, che poi avranno negli anni Ottanta. Andiamo ad ascoltarci questa canzone. Chiudi gli occhi perché soltanto ieri ho perduto la destra, con la sinistra però avrò lo stesso un salario sicuro, me l'ha promesso stasera la. Entro gennaio mi trovo un lavoro a colse nel gran trambusto che la sua sposa perdeva la vista. Era il 1972 con questa storia di un lavoratore che rimane vittima delle disgrazie più cattive, i veronesi Gatti di Vicolo Miracoli, Fausto. Sì, sono i Gatti nella loro primissima formazione, che pochi ricordano perché naturalmente quella più famosa è quella 4 con Franco Pini. Qui Franco Pini non c'è ancora, ci sono l'inglese Spry Melby e Gianandrea Gazzola che fa la voce principale e scrive il pezzo insieme con Umberto Smaila che invece c'è già. È nella prima formazione, sono un po' a cavallo fra il teatro canzone, quindi ci sono appunto tematiche di impegno, però anche ovviamente già il cabaret. Però gradualmente si sposteranno verso lidi più demenziali con l'emergere della personalità ovviamente di Jerry Calà soprattutto, che sarà soprattutto presente nei singoli successivi. E qui passeremo poi la parola al Banzo ovviamente. Eh sì, infatti rimaniamo sui Gatti di Vicoli Miracoli con questa Capito 1978. Sotto un plaid, voglio entrare al primo posto in it parade. Voglio andare a visitare un uomo. Voglio il conto corrente dei VGs. Capito? Voglio riscaldare mezza lasca, farmi il bagno nella vasca dove sguazza Raquel Welch. Voglio comandare un giorno all'ONU e col potere voglio fare uscire Bergamo dal Mac. Voglio avere un giumbo bere zonari che mi porti di corsa a far pipì. Esalta, voglio avere un John Travolta che mi preghi di insegnargli rock and roll. Insomma voglio l'impossibile, un divano sommergibile per fare un tuffo nell'assurdità. Ma per fortuna mi son sognato addosso e i miei sogni chi me li asciugherà. Scusate, vorrei salutare tutto il mio pubblico. Posso? Ciao. Una scorza di limone, una buccia di patata, un bel prezzemolone e il mio pinsimonio è pronto. Posso? Ciao! qui Banzo, insomma, vediamo già non solo come è cambiata anche un po' l'arrangiamento, la musica, ci stiamo avvicinando agli anni Ottanta, ma si è sentita anche la presenza di Jerry Calà, che mancava invece nella prima versione dei Gatti. E infatti vorrei salutare tutto il mio pubblico, ciao! No, il salto in pochi anni è incredibile, perché come sottolineava Fausto, il brano precedente era molto nei solchi, anche teatro canzone, cioè comunque uno slancio più cabarettistico, ecco, mi correggo, mentre qui questo è un brano commerciale, che in questo caso non è una brutta parola, è una sigla destinata all'edizione di Domenica In 78-79, presentata da Corrado, e prendeva a piene mani da tutti i trend, da tutte le mode del momento. Musicalmente la disco music è piena di riferimenti a personaggi dell'epoca, a mode Bee Gees, del periodo, John Travolta, Raquel Welch. Però io la trovo assolutamente irresistibile nello spirito completamente libero, caotico, quasi sovversivo, demenziale, che è incredibile associare a Rai 1 in quel periodo storico. E comunque, non lo so, poi se se ne è fatto qualcosa con la proposta di far uscire Bergamo dal Mac, credo di no. credo anch'io che non si sia fatto nulla. Torniamo indietro di qualche anno, al 73, troviamo Le Figlie del Vento con questa canzone dal titolo abbastanza enigmatico: I carciofi son maturi se li mangi poco duri. Eccola qui. Se li mangi poco duri, le ciliegie nel paniere quasi sempre sono nere, la lattuga nel barese ha le foglie larghe e tese, i finocchi delicati puoi trovarli surgelati, ma chissà perché. I carciofi son maturi, se li mangi poco duri, gli spinaci già tagliati puoi trovarli scatolati, le carote valdostane a sapore massonnane e l'asparago malese nasce una volta al mese, ma chissà. Completamente demenziale questo testo e questa canzone interpretata dalle Figlie del Vento, che avevamo trovato in un altro speciale tempo fa qui a Zibaldone, con un brano Sugli Sugli Bane Bane, che invece era stato presentato a Sanremo e scritto poco di meno che da Roberto Vecchioni, Fausto. Sì, è la vena ironica di Vecchioni, che si era esercitato anche con pezzi per i Nuovi Angeli, come ricordiamo, ne ha fatti diversi. Quindi diciamo che loro, tra l'altro arriviamo alla quota femminile, perché finora siamo soprattutto interpreti maschili. Loro sono quattro ragazze, fra l'altro tre di origine pugliese, una milanese, però il gruppo ovviamente poi situato sempre all'epoca, le case discografiche grosse erano a Milano, quindi siamo sempre in zona lombarda, e che hanno questo filone appunto di nonsense a tema culinario, che appunto hanno iniziato con sugli bane bane, tu mi scogli le banane e se le mangi nulla perde, ovviamente. In questo caso abbiamo invece questi carciofi, che appunto sono maturi se li mangi poco duri, e gli spinaci già tagliati li puoi trovare scatolati. Un testo profondissimo. Diciamo che loro forse erano un po' anche una risposta femminile ai primissimi cugini di campagna, no? Con pezzi come il ballo di Peppe, il loro filone più folk agreste, no? Diciamo che si rispondeva quindi con gli ortaggi. Loro hanno avuto comunque il loro successo circoscritto, adesso ha fatto credo tipo due album, poi sono ritornate magari con Revival. Mi ricordo che quando fece il famoso programma Anima Mia, Fazio, naturalmente certe, diciamo, certi guilty pleasure del periodo tornarono a riproporsi, sì, anche loro, sì, avevano fatto una brevissima reunion, quindi le ricordiamo con piacere. Eh sì, e parlavi della Puglia, adesso troviamo il re delle Puglie, soprattutto per quanto riguarda la musica ironica e demenziale. Non vi dico chi è perché secondo me lo riconoscerete subito. Uè, come Marie, non già ma fa una risa. Già ma fanno balla senza camisa e facciamoci questa danza, poi stringiamoci panza e panza con Barra Giacomina. Se non va sta zona si è diventato no bancherone, se vuoi fare un casa nuova abbiamo spugliato quando chiove. Lo sai come Marì, io ti voglio bene, quando vedo tu senti dalla vaina una fiamma di primavera, mi trasformo come una paira. Se mi voleva bene, come mi dice, diversamente tu mi ira fai felice. Ma siccome si non fa fallone, riste sempre non va sta salmare. Uè, come Marì, tu vuoi essere acceso, ma dormi si tratta da niente. Se io sono un bangheron, tu sei brutto e una cialtrona. Se io sono un bangheron, tu sei brutto e una cialtrona. Hey. Ma tu se ce l'hai così, possibile che non tu dici nessun c'è sito. Ma vedi che come te chi è, tu sei una cialtrona. Eh sì, l'avete riconosciuto, inconfondibile, Leone di Lernia accompagnato dalla sua New Rock Band, era il 1975, Banzo con questa Con Mar Maria. Sì, Leone di Lernia peraltro è l'unico artista del quale abbiamo messo canzoni in puntate diverse di questo speciale, abbiamo sempre cercato di accorpare, ma con Leone non è stato possibile perché lo stacco fra la prima fase della sua carriera e la seconda è abissale. E Leone è noto ovviamente per le sue parodie di canzoni dance con testi esilaranti, a volte anche di cattivo gusto, va detto, e spesso a tema gastronomico perché amava il cibo. Però ecco, questa fase della sua carriera è sicuramente meno nota. Leone era un rocker, le origini tranesi sempre in evidenza perché il disco si chiama Canzoni Rock Tranesi, quindi c'è il genere, c'è la lingua, ecco. Però ecco qui una differenza, che i brani tendenzialmente dovevano essere autografi, non si trattava di cover dei grandi successi, però ecco è una diciamo parte della sua carriera che è nota solo agli specialisti, perché Leone è quello che è apparso già avanti con gli anni e faceva, Magnando invece di Bailando. Quando invece la sua carriera è molto longeva, perché già nel 61, a 23 anni, come cucciolo di Lernia, aveva partecipato al primo festival del rock and roll di Gigo Agosti, che torna e tutto tiene, come vedi, e anche se il suo primo singolo uscì solo nel 68. Eh sì, rimaniamo in Puglia e troviamo un'altra voce molto conosciuta. Andiamo tutti, let's go. Andiamo tutti, let's go, rock shamanin. Jesus Christ, superstar, stranger. tutti le zegorro sciamoni. Se Parigi avesse me sarebbero lì ovviamente era Lino Banfi, o Lino Banfi, meglio dire, Fausto, Chamonix Rock, 1975, è stata la colonna sonora del famosissimo L'Esorciccio. Sì, questo grandioso, colossal, poveristico nostrano, uno dei pochissimi film fatti da regista da Ciccio Ingrassia, che all'epoca aveva litigato con Franco Franchi, e quindi coinvolge Lino Banfi in questa impresa. Questo brano direi che è proprio puro rock demenziale, perché rock è sicuramente rock e demenziale assolutamente. Possiamo ricordare che, fra l'altro, Kissinger è ancora al mondo, quindi tecnicamente il esatto, il pesce in frigidaire potrebbe ancora mangiarlo, mentre invece la regina Elisabeth ci ha lasciato da poco, Mao Zedong invece già da diversi anni, quindi l'anno dopo l'uscita della canzone. Esatto, quindi all'epoca, insomma, poteva essere una legittima aspirazione. Ovviamente il pezzo Banfi lo canta nel film nel momento in cui viene, appunto, diventa indemoniato, giustamente, quindi ha questa esplosione rock and roll. Andiamo avanti, sempre metà anni 70 troviamo questa canzone intitolata E Duc Mi Clami in Conte dei Frizzi Comini Tonazzi. E Duc Mi Clami in Conte e Nia C'è Contà O ecce mil morosis, o ecce mil morosis, ed uc mi clam in conno e ni ecce conta, o ecce mil morosis, dutis golasis, di fa l'amore con me. E io non vuoi nessuno, o cerci la fortuna, e io non vuoi nessuno, o cerci la fortuna, e io non vuoi nessuno, o cerci la fortuna, o cerci la fortuna. La figlia di un marchese che vede un grum di mes, un grum di dote, e io non so un po' o passa il marango. In plaza el viejo del bom, en plaza el viejo del bom, y yo no soy un poteo, pasa el marangón, en plaza el viejo del bom. La piel le ande, rutas tiras sin bande, tiras sin uña piel, yo soy muy bien de un ti, yo soy muy bien de un ti, rutas tiras sin bande, tiras sin uña piel. Educ mi clam in conno e nie c'è contà, o ecce mil morosis, o ecce mil morosis, educ mi clam in conno e nie c'è contà, o ecce mil morosis, dutis colasis, di fa l'amore con me. Banzo, dici qualcosa su questi Frizzi Comini Tonazzi, perché io non ne ho la più pallida idea, devo dirti la verità, sono sincero. Li ho scoperti anch'io lavorando a questa serie di speciali, ma ti assicuro che in Friuli e soprattutto in zona Udine sono un'istituzione. Allora, il nome del gruppo è semplicemente formato dai cognomi dei tre componenti, non c'è nulla di

tutto metta fa cagnare con stu cazzo di rubare. Totonnino fedendone tiene una sberla de cannone, e un tuo amico di Potop tiene 40 molotov, e uno dell'autonomia viaggia sempre con la zia. Cosa c'entra la zia? Pesa 500 kg e può sempre servire, calata dall'alto. Forse la tua coscienza è troppo in crescenza. Vabbè, bisogna dire che questo è un pezzo davvero che gioca con il surrealismo, tra l'altro di un allora giovane cantautore, Gianfranco Manfredi, Banzo. Sì, Gianfranco Manfredi non era specializzato in, in canzoni ironiche, tantomeno demenziale. Se pensiamo che, ad esempio, se a volte molto ironico, però non era quello il genere. Se pensiamo che nel disco dal quale è tratta questa canzone, si titola Ma non è una malattia, 1976, c'è un brano come Ma chi ha detto che non c'è, che per me è una delle canzoni più poetiche che siano mai state scritte sulla contestazione e la ribellione. Però questo brano, che scoprì da molto giovane, mi sembra imprescindibile, perché oltretutto descrive attraverso questa lente assolutamente folle anche, diciamo, la sinistra extraparlamentare e anche persone non affini alla sinistra extraparlamentare come questo interlocutore con poca coscienza politica. Però diciamo che c'è anche una parodia estremamente autoironica di tutto un gergo e una serie di riferimenti culturali che secondo me è anche rilevante a livello storico, oltre ad essere una canzone spassosa, perché è in grado di coglierne appunto il contesto. Gianfranco Manfredi, questo è il mio destino oggi, negli ultimi 30 anni è stato soprattutto uno sceneggiatore di fumetti, cioè, l'ho già detto per Pippo Franco, che però ha avuto un'esperienza più episodica. Sì, mentre Manfredi ha creato personaggi come Gordon Link, Magico Vento, Shanghai Devil, Adam Wilde, ne ho letti parecchi, ecco. Certo, e per ricordare anche, insomma, cantautori che facevano cose ironiche in quegli anni, c'era anche un giovanissimo Fabio Concato con la canzone A Dean Martin, che non possiamo mandare in onda, ma vi consiglio assolutamente di cercare. Rimaniamo a fine anni 70, 77, Sexy Fonny, Benito Urgu, eccolo qua. Buonasera signorina. Si accoda a me. Prenda una sedia se siede lì. E cosa c'ha, Cardo? Cosa sta facendo? Cosa si sta spogliando? E perché si spoglia? Non si butti addosso. Non si butti addosso così. Queste donne francesi ostricao non mi tocchi lì. Non temere, non c'è niente da temere, sa. Noi siamo gente sarda, gente coraggiosa, che abbiamo pelo nel cuore. Guardate cosa bella. Guardate cosa bellissima. Quanto mi piace. Thank you. sentite questa specie di cover ironica di Serge Gainsbourg in salsa sarda, Fausto. Raccontaci un po' di questo Benito Urgu. Sì, Benito Urgu è ancora oggi molto popolare anche a livello nazionale. In Sardegna è un mito. Lui ha cominciato col beat, con i Barritas e pezzi come Gambale Twist, e poi negli anni 70, sciolto il gruppo, ha cominciato appunto a imitare generi alla moda, ovviamente in salsa sarda, quindi giocando ovviamente sui doppi sensi, in questo caso appunto l'incomprensione fra questa ragazza francese e naturalmente appunto la parodia delle orgasmo song, il genere soft erotico che era diffusissimo nei primi anni 70. Fra l'altro ne farà anche un seguito l'anno dopo, intitolato Mon Cherie Fonny, e quindi questo sarà nel 78, e poi per finire la trilogia con il brano Filo di Fusione, che affronta un altro lato della tematica, e quindi insomma lui è davvero un paladino del genere demenziale. Fra l'altro ricordiamo anche un pezzo più recente come C'è da spostare una pecora, che lo riporterà alla popolarità nella fine anni 80 e inizio anni 90. Rimaniamo nel 77, Maria Sole, Sono seduta sul water closet. Sono seduta sul water closet, mi scusi domando, mi scusi ripenso, sono seduta sul water closet, è tutto un dolore, di sforzo ricordo, è tutto uno sforzo, di modo frastuono, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, è un gran cadere, del niente ricordo, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sono seduta sul niente di fatto, ma il water closet è fermo dolore, all'impotenza del niente accaduto, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, è tutto un dolore, di fermo del niente, del niente di fatto, del niente accaduto, ripenso allo sforzo del pronto recupero e di sforzo e ritorno mai fermo respinta di odore di niente cammino d'ascolto. Sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sono sincera, il mesto destino è lo sforzo di tonfo, è l'io del mio io, disciolto a niente di fatto. Sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet. E il mio ricordo è lo sforzo, ma sono respinta dal niente di fatto. Sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sono seduta sul mio dolore, di sforzo dolore, ma solo il niente è peso di niente. Sul water closet del mio ricordo, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet. Sul water closet del mio dolore allo sforzo, sono seduta sul water closet, ripenso allo sforzo del mio ricordo, lo sforzo del niente, di fatto, del niente accaduto. Sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet. Sono seduta sul water closet. Sono seduta sul water closet, sul water closet del mio ricordo. Sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sono seduta sul water closet, sul water closet. E beh, insomma, con questo finale così siamo ritornati alle canzoni un po' escatologiche, ma soprattutto Banza, abbiamo ritrovato anche una voce femminile che mancava un po' in questa puntata. Beh sì, in effetti uno dei problemi è che quando si parla di rock demenziale è un genere molto maschile, e volevo sottolinearlo anche dando spazio alle poche donne che si sono cimentate in territori affini, ed è questo il caso, perché non possiamo dire che Maria Sole faccia musica demenziale in senso schietto, anche se qui lo spirito dadaista è notevole. E Maria Sole, nome d'arte di Vittoria Salinas, che è genovese, classe credo 38, aveva già provato una carriera da cantante più istituzionale, però appunto cominciò verso la seconda metà degli anni 70 con questo stile assolutamente, mi ripeto, dadaista, che aveva molto a che vedere anche con tematiche come il femminismo e la liberazione sessuale, che molto spesso nel rock demenziale la rappresentazione del sesso è abbastanza maschilista e reazionaria, e qui invece lei nell'80 per esempio incise un pezzo dal titolo Ho il sesso pronto pronto, il seno gonfio gonfio, cioè appunto piacere femminile in ottica di liberazione sessuale. E ho visto una sua foto dove era in concerto a Milano nel 2021, quindi a oltre 80 anni, in abiti di scinti, un personaggio, come dicono gli americani, bigger than life, più grande della vita. Eh sì, tiene botta. 78, Andrea Mingardi, Super Circus, con questa Puss. Baby, ho bevuto una pozione e sto perdendo la ragione. Baby, non esisto più, non posso, la testa devo tingermi di rosso. Baby, inchiodami una gengiva e dai una lacrima furtiva, Sopra il punk la capra can, sopra il punk la con uno spillo le perforo una narice, poi le infilo le dita nella spina, che coi capelli dritti è più carina. Sopra il pan la capra can, sotto al pan la capra crep, io son diverso, mi sento realizzato, finalmente mi sono vomitata. Con una giacca di pelle umana ed una cagna di razza ariana vado in giro tra smorfie e lazzi, per me siete voi pazzi. Io sono un brufolo sulla vostra pelle, voi mi schiacciate e viene fuori il pus. Pus! La violenza che c'è in me, vuole ammazzare, datemi un re. Io e i miei figli che siamo spiacenti, e allora datemi dei presidenti. Il Parlamento sarà una pacchia, vi ucciderò con una vernacchia. In giro a dir che sono stanca di avere un figlio punk che senza una rotella gli Vabbè, qui ritroviamo un altro artista che poi ebbe successo commerciale, come il bolognese Andrea Mingardi, Banzo, con questo brano, insomma, da un rock molto anni 80 già, le sonorità sono quelle. Beh, no, il brano è del 78, beh, sicuramente è un brano hard rock. Esattamente. Però è interessante il testo, perché con un brano hard rock si ironizza sul nascente movimento punk, non c'è bisogno di spiegarlo, i riferimenti sono molto chiari, i giochi di parole sono esilaranti, però ovviamente Mingardi guarda queste cose con un po' di distanza perché all'epoca aveva già 38 anni, quindi ovviamente non poteva condividere un movimento che interessava gente che aveva circa la metà dei suoi anni. Un brano inciso con i Super Circus, che è un po' la denominazione che, ha avuto, che hanno avuto i suoi dischi fra il 76 e il 79, il gruppo che lo accompagnava, e abbiamo fatto sentire canzoni in altre lingue minoritarie dell'Italia. Anche Mingardi ha inciso molte canzoni in dialetto bolognese strepitose come Sfighe e Io Vesto un Martien, che se lo spazio lo permettesse mi sarebbe piaciuto farvi sentire. Rimaniamo al 79, Marinella, Autunno, cadono le pagine gialle. Sono convinta da morire, sono sexy, quanto basta. Ho la voce per cantare, sono già stufa di restare qui alla SIP. Qui sono proprio sprecata, sono un'artista mancata. All'inizio mi avevano lusingata dicendo che avrei sfondato con il pop. Vorrei cantare. Festosa questa canzone di Marinella, Autunno, cadono le pagine gialle, 1979, Fausto. Sì, Marinella, poi sarebbe Marinella Bulzanini, cognome direi tipicamente bolognese, e infatti era bolognese, e ha tentato a fine anni 70 una carriera appunto di cantante proto-demenziale, fra l'altro una delle pochissime cantautrici insomma del filone, sono veramente poche. E questo pezzo è scritto da Roberto Ferri, che era suo marito, purtroppo compianto, è venuto a mancare l'anno scorso, ed è stato tra l'altro un a lungo collaboratore di Battiato e di Fabrizio De André, ricordiamo. Questo è un po' più uno sfogo, piuttosto diciamo delirante, di un'impiegata della SIP, ricordiamo all'epoca c'era ancora la SIP in Italia, sì. Non ancora la Telecom e le altre compagnie successive, e ne tenta appunto la strada di Sanremo, non riesce però ad accedere alla serata finale, contrariamente invece al gruppo che andiamo ad ascoltare adesso. Eh sì, Pandemonium 1979, anche loro, Tu fai schifo sempre. Bello diretto questo titolo. Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore, ecco, sei un fiore. Svegliati una buona lavoro e smettila di sognare. Sai cosa ti dico? Tu fai schifo sempre da mattina. Alla sera fai schifo sempre quando scendi. Per stare fai schifo sempre quando leggi. O giornale fai schifo sempre. Fai schifo sempre. Tu sei un fiore. Un fiore. Profumato. Profumato. La mia vita a scriverti poesie, a parlarti d'amore. Come ricompensa mi basta un tuo sguardo, un tuo sorriso. La bocca più dolce, una ciliegia. Delle frasi meravigliose. Io sto morendo d'amore per te e tu mi tratti così. Ma chi credi di essere? L'unica donna che c'è sulla terra credi di essere? Ma sai, sai che ti dico? Tu fai schifo sempre da mattina a sera. Tu fai schifo anche di notte. Un fiore, una rosa, ma sta cosa brutta, sta cosa curiosa. Ma è arrivata Sofia Loren, un fiore, ma quale fiore? Una ciliegia, ma che ciliegia? Non si manca una mera fracciata. Lei si illudeva di essere un fiore e io poi veramente ti dicevo che era un fiore. Ma quale fiore? Quale rosa? Una rosa, ma chi ti conosce? E così si sta concludendo questa "Tu fai schifo sempre", messaggio molto chiaro, quello dei Pandemonium, Fausto, 1979. Sì, esatto, loro arrivano decimi in classifica, quindi contrariamente a Marinella riescono a piazzarsi in quel Sanremo, un Sanremo quindi che apre le porte alla musica demenziale, incredibilmente, saraltro erano anche anni un po' particolari per il festival, e loro erano questo gruppo, diciamo, aperto, perché alla fine anche qui siamo nell'ambito del teatro canzone, collaboravano con molti cantautori della RCA italiana, all'epoca una grandissima casa discografica, poi purtroppo è scomparsa naturalmente, e fra l'altro un gruppo in cui sono transitati tantissimi artisti, fra cui persino Amedeo Minghi, però prima di Sanremo, quindi qui Minghi non c'è, la voce è quella di Gianni Mauro, poi c'è Enzo Polito e quindi tanti altri cantanti che poi fra l'altro hanno anche collaborato con Detto Mariano per moltissime colonne sonore e sigle televisive. Ci metteremo veramente fino all'alba a raccontarle tutte. Sì. Siamo ormai arrivati praticamente alla fine di questa puntata, ci rimangono due brani. Nel frattempo, Fausto, ti ringrazio di essere stato con noi, ti do appuntamento alla prossima settimana e ci ritroviamo venerdì prossimo. Alla prossima puntata, ciao a tutti. E rimaniamo alle 79 con questo inno del corpo sciolto famosissimo del grande Roberto Benigni. Questo lì, no, del corpo sciolto, lo può cantare solo chi canta di molto. Se vi stupite la reazione strana, perché cancare soprattutto è cosa umana. Noi ci svegliamo e dalla mattina il corpo sogna sulla latrina. Le membra posano in mezzo all'orto. E questo l'inno, l'inno sì, del corpo sciolto. ci han detto vili, brutti e schifosi, ma son soltanto degli estetici gelosi. Ma il corpo è lieto, lo sguardo è puro, noi siamo quelli che han cancato di sicuro. Pulirsi il collo da gioie infinite, con foglie di zucca, di pietola o di vite. Quindi cancante, perché è dimostrato, ci si pulisce il culo dopo aver cancato. Evviva i cessi, siamo benedetti, evviva i bagni, le toilette, sei gabinetti. Evviva i campi, da concimare, viva la merda, che ho voglia di cagare. E se parlo con demente, un petente, un ignorante, mi levo la giacca e la cacca. Gli fo il bello nostro è che ci si incazza parecchio, ci si calma solo dopo averne fatto un secchio. La voglia reggere per una stagione e con le merda vuoi far la rivoluzione. Pieni di mood andremo a lavorare, poi tutto un tratto si fa quello che ci pare. E a chi ci dice, dice te, fai questo, quello, gli caghiamo addosso e lo copriamo fino al cervello. Non sono stato mai così giocondo, viva la merda che ricopre tutto il mondo. È un mondo libero, un mondo spacquerà, perché spillacquerà di qua e di là. Cacone, perdone, stronzone, puzzone, la merda che vi scappa si spacca su di te. La canzone scatologica per eccellenza è il Benigni degli anni d'oro, quello che pochi anni prima, nel 77, era attore in quel famoso Berlinguer ti voglio bene, banzo di Bertolucci. Sì, è probabilmente la canzone, Benigni come cantante non ha fatto molto, c'è anche un brano intitolato La marcia degli incazzati del 76 che è notevole, però questa diciamo che è la sua escursione canora più conosciuta per ragioni ovvie, perché è un brano rimasto scolpito nella storia e venne presentato per la prima volta al programma di Renzo Arbore, uno speciale del programma di Renzo Arbore l'altra domenica nel 79, suscitando reazioni, vabbè, immaginabili. È logico. Ascolta, noi siamo arrivati davvero a fine puntata, il tempo stringe, però vogliamo presentare l'ultimo brano, quello con cui ci salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana al secondo monografico, la continuazione di questo appunto dedicato alla musica demenziale. Sì, esatto, l'ultimo gruppo di oggi sono i Sorella Maldestra di Vercelli, siamo sempre nel 79 ma già in piena esplosione punk con riferimenti agli Schiantos, tranquilli non ce li siamo dimenticati, ma in una versione abbastanza più grezza, scomposta e incattivita verrebbe da dire, con un brano assolutamente surreale che dà il titolo al loro disco del 1979, per me una gemma assoluta. Eh sì, con questa canzone chiudiamo la prima parte della famosa invasione dei dementi in Italia, torniamo la prossima settimana, grazie a tutti di essere stati con noi, ci ascoltiamo Cadavere dei Sorella Maldestra. Banzo, grazie come sempre per averci accompagnato. Grazie a te, Steven, alla prossima. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, alle 19.58 ormai, diceva tutti i venerdì. Nella seconda parte dello speciale vi daremo anche aggiornamenti sulla situazione di Bergamo riguardo alla sua aderenza al MEC. Lo faremo. Ciao Banzo, Sorella Maldestra. Bye bye. Pesado solo nuestro amor, amor. bocca si potrebbe fare il pattinaggio. La tua bocca si potrebbe fare...